Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a marzo del 1808. I francesi occupano anche Roma, Italia unita di fatto, ma sotto Parigi. L'embargo uccide l'economia americana, esportazioni in calo di quasi l'80%. È guerra tra Svezia e Russia, l'esercito dello zar punta alla Finlandia. Muore Pier Marini, l'architetto della Scala di Milano e di Villa Reale a Monza. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Il diniego di Papa Pio VII di aderire al blocco continentale nei confronti dell'Inghilterra ha spinto i francesi ad invadere Roma. Pio VII ha provato sinceramente a battere le vie della trattativa e della persuasione per difendere le prerogative della Chiesa e la riaffermazione nell'Europa di Napoleone della fede cattolica, ma di fronte al decisionismo di buona parte le prudenze del Santo Padre si sono rivelate armi spuntate. Il Papa infatti non è riuscito a mitigare le innovazioni del codice napoleonico e ha risposto rifiutandosi di aderire al blocco continentale. L'imperatore invece parla con l'azione anche brutale e così, dopo aver pronunciato lui stesso l'annullamento del matrimonio del fratello Girolamo con la moglie, un'americana di Baltimora, ha troncato le tensioni che ne sono seguite con il Vaticano, dando ordine al generale Miollì di occupare Roma. Il 2 febbraio i francesi sono entrati nella città eterna, a quanto pare per restarci. Un mese dopo le province di Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino sono state annesse al Regno d'Italia. Il clima diplomatico è pessimo. Il Papa è chiuso al Quirinale, i francesi comandano nella sua città. Ma i romani, soprattutto quelli degli strati più umili, non si sono lasciati sedurre dalle idee nuove degli occupanti. Nessuno crede che questa convivenza di due poteri possa durare a lungo. Paolo Piacenza e il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Si apre nel frattempo un nuovo fronte di guerra. Il neo alleato della Francia, la Russia, ha deciso di attaccare la Svezia senza aver ancora aperto ufficialmente il conflitto. Un'armata dell'impero zarista è penetrata in territorio finlandese, prendendo di sorpresa l'esercito svedese che sta cercando di abbozzare una difesa. L'esito sembra scontato. L'embargo Act, varato dagli Stati Uniti, che impedisce a tutte le navi di commerciare con l'estero, provvedimento motivato dalle tensioni con l'Inghilterra e tra Inghilterra e Francia, sta affossando l'economia americana. Le esportazioni degli Stati Uniti sono calate del 79% rispetto all'anno scorso e le importazioni del 58%. Particolarmente colpita ovviamente la città di New York, principale porto del paese. È morto a 74 anni uno dei maggiori architetti italiani. Si tratta di Giuseppe Piermarini, esponente fondamentale della recente scuola neoclassica. D'impianto neoclassico sono infatti le sue due maggiori opere, il Teatro alla Scala di Milano e la Villa Reale di Monza. Già allievo di Luigi Vanvitelli, con il quale lavorò alla Reggia di Caserta, è stato anche docente di architettura all'Accademia di Belle Arti di Brera. Gli ultimi anni di vita li ha trascorsi nella sua città natale, Foligno, in Umbria. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciarci un commento, farlo prendendo penna e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.